davvero alle stelle, anche perché con l'iniziativa di ieri abbiamo mostrato quanto una solidarietà è capace di disseminarsi nei territori in Italia e non solo, è capace di dare continuità ai picchetti della dignità, della giustizia sociale e della solidarietà che gli operai della logistica stanno mettendo in campo ormai da mesi, soprattutto a Piacenza, ma non solo. Stanno mettendo in campo questi picchetti della dignità e della solidarietà per una lotta che tra l'altro sta iniziando a portare a casa dei risultati anche importanti. Questo è sicuramente un dato molto positivo dal punto di vista politico, perché quello slogan per cui i movimenti ricordano che con la lotta paga, adesso a Piacenza è quanto mai qualcosa di concreto e assolutamente non retorico. Ecco, sull'onda di queste prime vittorie di battaglie all'interno naturalmente della vertenza radicalissima tra gli operai e le cooperative che lavorano sulla logistica, naturalmente si sta costruendo una sorta di viralità anche al di là di Piacenza. Anche qui a Bologna ci sono state già altre battaglie che hanno cercato di portare le stesse pratiche che sono state costruite dagli operai piacentini. Ora, l'iniziativa di ieri era pensata come un'iniziativa per tentare di dislocare, costruire una sorta di logistica, di logistica dell'antagonismo, di logistica della solidarietà, a partire naturalmente dalla lotta piacentina e portarla anche a Bologna. Ci siamo trovati in più di un centinaio di studenti precari, compagni del laboratorio Crash, dei collettivi autonomi universitari fuori dai cancelli dell'IKEA. Ci siamo avvicinati all'ingresso e lì abbiamo trovato uno schieramento di carabinieri che non appena ha visto quant'era forte la determinazione per bloccare l'IKEA ha subito caricato il presidio. Il presidio non l'ha fatto, non è retroceduto neanche di un millimetro, sia dal punto di vista politico ma anche poi quanto mai concreto, perché una volta risistemato lo striscione si è continuati ad andare avanti. A quel punto sono continuate le cariche che hanno tentato di sciogliere la manifestazione, tra l'altro cariche anche abbastanza dure che si sono susseguite 4, 5, 6 volte. Eppure il presidio non si è fatto intimidire, al punto che dopo un quarto d'ora l'IKEA è stata costretta ad annunciare la chiusura del negozio. Ecco, rispetto alla giornata di ieri, che come dicevo è stata considerata dai migranti ma anche da tutti i manifestanti come una piccola vittoria da aggiungere alle tante altre piccole vittorie che stanno attraversando le lotte degli operai della logistica, ecco, ha mostrato come la determinazione della solidarietà può portare a casa dei risultati importanti. A mio avviso sta finendo anche un po' quella sorta approccio di solidarietà per quanto riguarda le lotte migranti, che fino a poco tempo fa vedevano certe forme quasi di umanitarismo, una solidarietà che aveva un sapore in un certo senso terzomondista. Qui possiamo dire invece che i precari e gli studenti cominciano a vedere le lotte degli operai della logistica come qualcosa che gli appartiene immediatamente. Gli operai migranti si stanno cercando di liberare dalla Bossi-Fini, da naturalmente quella legge terribile che poneva contro di loro un ricatto fortissimo e gli impediva naturalmente anche di avanzare delle giuste e legittime rivendicazioni. Ecco, si stanno liberando a mio avviso all'interno delle lotte della logistica proprio da queste catene e naturalmente i solidari che sono al loro fianco hanno capito subito quanto entusiasmo e quanto intransigenza c'è in questa lotta e sicuramente a Bologna è soltanto un primo passo, si continuerà in questa direzione. Senti, Piacenza è chiaramente stata il luogo di partenza, a partire dal quale si è messa in cammino questa vertenza dal significato politico molto forte. Lì si sono mossi i lavoratori migranti, stufi di accettare condizioni di lavoro sospese nel limbo dell'arbitrarietà imposta da IKEA e hanno poi reagito in modo molto determinato rispetto poi ai provvedimenti discriminatori di licenziamento, di estromissione che IKEA ha tentato di portare avanti. Anche a Casalecchio, Fulvio, c'è un nuovo protagonismo proprio del soggetto lavoratore migrante in questa situazione? Ma va detto che Casalecchio è uno dei poli, è uno dei territori insieme ad altre piccole zone tutto intorno Bologna della logistica. È una delle parti insomma del tessuto produttivo emiliano-romagnolo molto importante, e già su questo territorio si stanno sviluppando delle iniziative molto importanti, molto interessanti. Va ricordato che insomma in Emilia-Romagna siamo un po' in una sorta della patria del modello cooperativistico, e qui naturalmente questo modello, incalzato anche dalla crisi e dall'austerità, sta mostrando non solo tutti i suoi limiti ma anche veramente il marcio che aveva imposto nei territori. Ci sono diversi operai e operaie, soprattutto migranti all'interno, che lavorano incatenati, lo possiamo dire anche senza parlare di un eufemismo, all'interno di questo tessuto produttivo gestito dalle cooperative, che incominciano a ribellarsi a delle condizioni di lavoro che sono veramente schiavistiche. È stata vinta già la scorsa settimana una piccola battaglia all'interno sempre dell'indotto della logistica a Lippo, in una piccola città vicina proprio Casalecchio, e naturalmente questa prima piccola vittoria, che naturalmente come dire, è soltanto un primo passo anche per gli operai che l'hanno messa in campo, che hanno visto comunque la loro rivendicazione di riscrivere il contratto ottenuta soltanto veramente come un primo slancio. Vi potete immaginare quanto questa piccola vittoria comunque vinta dai ragazzi di Lippo abbia poi come dire, che costruito una sorta di viralità anche nel resto delle altre fabbriche. Sì, sicuramente c'è molta agitazione a Casalecchio e non solo. Già quest'estate un'altra vertenza era stata vinta, e sicuramente l'eco degli eventi piacentini sta dando molto coraggio e forza per spingere in avanti le iniziative. Anche all'UPS di Bologna è in fibrillazione. Sappiamo che ci sono stati i primi momenti di iniziativa da parte di operai organizzati nel sindacato Sicobas, e c'è da credere che questo dicembre d'austerità, di lacrime e sangue a partire dalla logistica, anche in Emilia-Romagna avrà e comincia ad avere la capacità di mettere in discussione quel modello produttivo che veniva fatto passare come una sorta di modello di fiore all'occhiello del modello cooperativistico, ecco, di mettere in discussione quel modello mostrandone tutta naturalmente le infamità che riproduceva soprattutto sulla vita e la quotidianità dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, e anche di precari giovanissimi, come dire, indigeni nati qua in Emilia-Romagna. Bene, senti, andiamo a chiudere, Fulvio. Vabbè, alcuni elementi di rilevanza politica li hai già messi tu in evidenza, cioè il fatto che ai presidi abbiano preso parte decine e decine di studenti, quindi un segnale incoraggiante, no? In direzione di una presenza ormai costante dei giovani precari anche alle lotte dei lavoratori, insomma il fatto che si trovino dei punti d'aggancio è certamente un fattore essenziale in previsione, insomma, di lotte anche più vaste, più estese, per ottenere miglioramenti generalizzati. E la forma di lotta, quella del presidio, del blocco, che ha dato comunque ampie garanzie di riuscita anche a Piacenza, ecco, lì la reazione è stata però a un certo punto pesantissima, perché si è arrivati addirittura alla serrata e poi a denunce mirate, peraltro con anche richieste di risarcimenti economici piuttosto elevati, che poi i lavoratori migranti, figuriamoci se possono sopportare. Che sentori avete rispetto proprio al tipo di gestione che vuole intraprendere IKEA rispetto a Casalecchio? Ma per ora sembra che l'IKEA sta lasciando libero il campo ai manganelli e agli scudi. Insomma, ieri era abbastanza chiaro l'atteggiamento, l'indicazione che aveva dato l'IKEA di Bologna alla questura della città. Le cariche sono state molto violente, la polizia era, come dire, aveva un'indicazione politica molto forte che veniva dai manager locali dell'IKEA. Dall'altra parte per ora sembra che almeno qua a Bologna voglia delegare ai manganelli, agli scudi dei poliziotti, cercando comunque di mantenere come dire quell'immagine dell'IKEA che viene presentata dalle sue pubblicità, dalle sue campagne di marketing, come di un'azienda ecocompatibile che rispetta i diritti civili e via dicendo. Però naturalmente questa strategia, almeno a Bologna, dopo la giornata di ieri, vi potete immaginare che ha mostrato tutti i suoi limiti, perché adesso l'IKEA sarà costretta a come dire entrare nel merito della violenza e della brutalità poliziesca che ha ordinato contro i manifestanti, e sicuramente dovrà farsi anche i suoi calcoli per il futuro, perché noi abbiamo annunciato, insomma, questa è soltanto una prima iniziativa, in cui abbiamo mostrato come la solidarietà è capace anche di dislocarsi nel territorio, e per ora non abbiamo avvisaglie di come dire ritorsioni contro i lavoratori dell'IKEA di Casalecchio. Ci sembra, insomma, che come prima giornata di lotta l'IKEA ha voluto comunque delegare completamente alla questura la gestione, come dire, militare e politica rispetto all'iniziativa di lotta messa in campo ieri. Leggevo il comunicato scritto dai manager delle aziende, che cercavano di correre ai ripari facendo riferimento alle loro campagne di cosiddetta solidarietà a fianco dei diritti civili, eccetera, eccetera. Insomma, tutte le solite cazzate che siamo abituati ad ascoltare da queste multinazionali che sappiamo fanno una campagna di marketing a favore dei diritti civili, poi naturalmente non chiudono un occhio, fanno finta di chiudere un occhio quando poi ordinano di passare come dei bulldozer sopra i diritti dei lavoratori che vengono sfruttati nella propria azienda. Ecco, per ora questo qua è il dato. Sicuramente ci saranno aggiornamenti nelle prossime giornate, perché, come dicevo, le iniziative continueranno, e anche da questo punto di vista magari in futuro potremo aggiornarci per capire anche qui a Bologna come l'azienda vorrà muoversi rispetto alle iniziative di solidarietà, ma anche di lotta all'interno del tessuto cooperativistico che regge la produzione e la distribuzione dell'IKEA. Benissimo, e allora aspettiamo di conoscere quali saranno le prossime iniziative, vediamo un po', siamo anche in attesa magari di possibili reazioni di tipo aziendale, vediamo un po' quello che succede, i collegamenti comunque, insomma, con l'asse piacentino chiaramente ci sono, e si vedrà magari anche di dare delle risposte comuni in tal caso. Grazie Fulvio. Grazie a voi, un abbraccio, ciao.